presenta Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qui, buongiorno da Nicoletta. Se io vi dico acido, voi a che cosa pensate? Al limone? Alla vostra collega viperina? A quella sgradevole sensazione che avvertite magari dopo mangiato, all'imboccatura dello stomaco? Chiamateci, perché oggi la parola chiave della nostra trasmissione è acidità. Allora, l'acida è quella che è sempre un po' nervosa, è quella che non gli va mai bene niente, sempre è quella che non si può fare questa, eh? Ci sono delle regolamentazioni da rispettare, eh? Capito? È vietato, Sempre ci sono delle regole, capito? Magari, non so, suo marito: tesoro, stasera ho una cena di lavoro. Non penserei mica di uscire vestito così stasera, Dammi la camicia che te la stiro, dammi le orecchie che te le stiro, Allora, diciamo la verità, anche voi avete ricevuto qualche battutina acida magari durante questi incontri legati alle feste natalizie? Voi come avete reagito? Ci avete riso sopra? Avete risposto con altrettanta, se non superiore, acidità? Avete lasciato cadere il discorso? Chiamatemi per avere o dare rimedi antiacidità. 800 24 00 24. Intanto io saluto il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta, esperto anche del nostro Daily Lab, che vi consiglio sempre di andare a frequentare. Buongiorno dottor Aquilar, bentornato. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. La persona acida, dottor Aquilar, lavora un po' in punta di fioretto, usa le parole per irritare la sua vittima, ma lo fa camuffandole o anche sotto forma di scherzo, insomma lancia una sfida, ma lascia che sia la sua vittima a fare il passo successivo, tasta un po' il terreno. Certo, perché essendo in qualche modo caratterizzata da, come dire, malignità e ostilità, un atteggiamento in qualche modo scontroso ma camuffato, provoca ad un rituale agonistico competitivo in qualche modo. E il mio suggerimento è di non abboccare a questa provocazione, perché altrimenti si finirà con l'alzare il tono e dal fioretto si passerà alla sciabola e alla scimitarra. Quindi lasciare cadere, questo è il miglior metodo per neutralizzare l'acidità, ma dottor Aquilar, che fatica a far buon viso a cattivo gioco. Alla fine si rischia di farsi venire l'ulcera. Che ti prende? Hai un'aria scorbutica, sei di nuovo a dieta. Tesoro, ti ricordi di lui? Non ci vediamo da tanto tempo. Sono scorbutico, Jack, e ho fatto una lauta colazione stamattina. Tu mi fai venire l'ulcera, me la sento. È come se avessi ingoiato la batteria di una macchina. Perché non hai trovato due fonti? Ti ricordi la storia del cardinale O'Brien? E tu ti ricordi che volevano licenziarmi? Ma se per poco non ci vinceva il premio Pulitzer! Dottor Aquilar, le persone acide alla fine, se continuiamo a frequentarle e a inghiottire, rischiano di farci venire, come si dice, l'ulcera, un modo di dire, ma ha un po' di fondamento. Ha un po' di fondamento nel senso che alcune emozioni vengono immediatamente percepite con una sensazione allo stomaco e in qualche modo soprattutto il disgusto che ci fanno certe forme di acidità, perché alcune possono essere anche simpatiche. Se è una leggera acidità, se la persona è acidula, può anche essere simpatica, ma quando invece c'è un'acidità più forte ci danno una reazione allo stomaco, perché è collegata al senso di disgusto e al significato di desiderio di allontanarsi dall'entità nociva, e quindi in qualche modo lo stomaco risponde dandoci la sensazione della nostra emozione negativa e indicandoci un comportamento: allontanati dalla persona nociva. Lo stomaco è intelligente, dottor Aquilar. Assolutamente, più intelligente di noi, come ecco, quindi inconscio. Affidiamoci al nostro stomaco. Grazie al dottor Aquilar, buona giornata e grazie, tanti auguri. E buona giornata e auguri. E a proposito di stomaco, il nostro stomaco deve produrre sostanze acide nei processi digestivi, ciò che però è fisiologicamente di enorme aiuto per il nostro corpo e per il nostro metabolismo, si trasforma a volte in un vero e proprio boomerang che ci fa stare male e rovina la vita a tanti di noi proprio nel periodo che segue i pasti, tanto da spostare poi i sintomi non solo sul versante più propriamente organico ma anche su quello psicologico. In linea con noi abbiamo il professor Antonio Gasbarrini, ordinario di gastroenterologia all'Università Cattolica e direttore della divisione di medicina interna e gastroenterologia al Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Professore, noi abbiamo esagerato un po' in questi giorni, abbiamo fatto gran bene, ma il nostro stomaco non ha gradito, si è lamentato un po', ci ha fatto capire che non ama fare gli straordinari. No, assolutamente. Sa, lo stomaco è un organo incredibile, perché se voi pensate, l'esempio più classico, no? Che deve prendere una bistecca, che è una cosa bella, importante, difficile da digerire, e deve ridurla in portiglia per poi essere assorbita dall'intestino, capite che è un organo di incredibili potenzialità. Però le stesse potenzialità in alcune condizioni possono rivolgersi contro di noi e darci dei problemi. Quindi pensate al vostro stomaco, il dottor Aquila diceva di ascoltarlo perché ci dà spesso le direzioni, ma noi ascoltiamo anche quando brontola, se si lamenta durante i pasti, subito dopo, nel giro di mezz'oretta al massimo, oppure in tempi non sospetti, la notte. Ci sono degli alimenti che lo mandano in fiamme o situazioni, come ne parlavamo prima col dottor Aquilar, che lo innervosiscono. Professor Gasbarrini, iniziamo subito a dire che però il nostro stomaco è vero che non ama fare gli straordinari, ma non ama neanche stare un po' con le mani in mano, insomma non ama il digiuno, quindi ai pentiti delle abbuffate di Natale un consiglio: non saltate i pasti. È così, vero professore? Sì, è così, è così. Lo stomaco, calcolate che deve produrre, produce tutto il giorno acido e sta in un ambiente a pH 2, che è un termine tecnico per dire che all'interno dello stomaco c'è un'acidità così potente che è in grado di cominciare il processo di digestione di quello che noi mangiamo. È ovvio che se lo stomaco rimane troppo tempo a digiuno o al suo interno arrivano delle sostanze che continuano a produrre ad esempio acidità, pensiamo all'alcol, se non è accompagnato dai cibi, è ovvio che lo stomaco, questo acido, può cominciare a dare dei problemi. Non li dà tanto nello stomaco, ma ne dà soprattutto nell'organo a lui adiacente, che è l'esofago. Infatti la più classica manifestazione è questa sensazione di bruciore, di acidità retrosternale, che vuol dire che un po' di acido gastrico è risalito lungo l'esofago. E ci sono alimenti, professor Gasbarrini, che in alcune persone proprio causano acidità di stomaco. Immagino li conosciate bene, ma noi ve li facciamo sentire. Attenzione però, prestate orecchio, perché nell'elenco ci sono ben 4 intrusi. Trovateli e chiamatevi per voi, al primo di voi che chiama il nostro numero 800 24 00 24 con la risposta esatta, quindi con i 4 intrusi, le ricette dei Magnifici 20, il libro di Marco Bianchi, che è stato spesso ospite da noi. I buoni piatti che si prendono cura di noi. Andiamo a sentire. Limone, clementine, kiwi, ricotta, pera, arance, pompelmo, parmigiano, aceto, sardine. 800 24 00 24 trovate gli intrusi, ma intanto sappiamo una cosa importante sottolineare, che non tutti gli acidi vengono per nuocere. Il limone, l'aceto, gli agrumi sono alimenti che ci aiutano anche a stare bene e in alcune occasioni diventano addirittura, lasciatemelo mettere tra virgolette, terapeutici. In linea con noi abbiamo la dottoressa Paola Reverso, medico, nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te. Dottoressa Reverso, buongiorno. Buongiorno. Iniziamo subito dal limone. Chi soffre di acidità lo teme, ma il limone è capace di fare grandi cose. Beh, intanto contiene la vitamina C e quindi aiuta ad assorbire il ferro contenuto nei cibi vegetali, per esempio nelle lenticchie, nei fagioli, nei ceci, ma anche negli spinaci, nelle crucifere, quindi nel cavolo, nelle insalate, c'è un po' di ferro anche nelle insalate. Senza vitamina C questo ferro, che è già un po' più difficile da assorbire rispetto al ferro contenuto nelle carni, si assorbe veramente in quantità molto molto bassa. Quindi un pochino di succo di limone quando noi pranziamo per condire l'insalata, oppure anche sulle foglie tenere di spinaci, o anche alcune gocce semplicemente nell'acqua che beviamo. Però il limone, come tutti i cibi acidi, quindi anche l'aceto, ma così anche il pompelmo, che a volte può essere anche una spremuta di pompelmo, un ottimo aperitivo, abbassano la glicemia del pasto. Quindi cosa significa? Che se noi mangiamo del riso, della pasta, ma anche una fetta di dolce al termine del pasto, la glicemia, la glucosa nel sangue si alzerà in misura più lenta e quindi l'insulina verrà liberata più lentamente, e questo è sicuramente un grande beneficio per la nostra salute, perché le oscillazioni del glucosio devono essere sempre contenute affinché noi non ingrassiamo e non incorriamo in quello che può essere una malattia, la malattia del benessere, il diabete mellito, se siamo persone predisposte, quindi se siamo in sovrappeso, se abbiamo una familiarità, ebbene non tenere sotto controllo. Dottoressa Reverso, ma i cibi acidi facilitano anche la digestione? I cibi acidi facilitano la digestione, soprattutto facilitano la digestione delle proteine, degli alimenti proteici, per esempio il pesce, quindi un pochino di succo di limone sul pesce ne facilita la digestione, perché le proteine hanno bisogno di un ambiente acido gastrico per poter essere scisse, per poter essere degradate all'interno dello stomaco, e quindi anche così come il pollo, la carne. Ricordiamoci che i cibi acidi devono essere assunti sempre o durante il pasto o prima dei pasti, soprattutto se soffriamo un pochino di stomaco. Quindi se noi vogliamo inserire, come ci piace, sono frutte di stagione, gli agrumi, ci sono dei momenti della giornata particolari in cui è meglio consumarli? Se non abbiamo problemi di stomaco possiamo mangiarli quando vogliamo. Certo che dobbiamo pensare che lo stomaco libera i succhi gastrici quando noi introduciamo del cibo per poterlo digerire. Quindi è logico che se noi gli agrumi, così come l'arancio, i pompelmi, i mandarini, li mangiamo prima del pasto, assecondiamo quella che è la normale funzione dello stomaco. Dopo il pasto diamo acidità quando ormai e lo stomaco è già pieno di cibo e i succhi gastrici cominciano a diminuire perché si avvia il processo, certo, della digestione. Ma l'acidità può essere anche causata da abbinamenti non corretti. Proviamo a citarne alcuni? Per esempio, non è bene assumere gli agrumi quando noi mangiamo dei latticini, soprattutto dei latticini molto grassi come la panna, le besciamelle, oppure facciamo un pasto ricco di latticini. Per esempio, mangiamo magari delle lasagne al forno con della besciamella, poi mangiamo magari un secondo piatto con dei formaggi, magari formaggi ricchi come il gorgonzola, la fontina, l'emmental, e poi magari completiamo con un dolce a base di panna. Ecco. Se qui mangiamo due o tre mandarini, non è una buona idea. Tagliamo il latte, no? E quindi rallentiamo il processo digestivo e possiamo anche avere poi un senso di pesantezza, addirittura di nausea, e anche poi più avanti, nelle ore successive, avere un po' di meteorismo, quindi di fastidio anche a livello intestinale. Per esempio, un modo ottimo per consumare il latticino, un momento ideale, è al mattino, al risveglio. Infatti si dice l'arancia loro in bocca, al mattino loro in bocca. Sì, perché la digeriamo facilmente, ma non solo, ricordiamoci che al mattino dobbiamo idratarlo, questo povero organismo che è stato per tutta la notte, non solo a digiuno, ma senza idratazione. È difficile che di notte ci svegliamo per bere, ecco. Dottoressa Reverso, prima di salutarlo, rispondiamo ad Angela che ci scrive: le bollicine mi danno acidità, se dovessi dare retta al mio stomaco, come suggerite voi, brinderei solo con i rossi, ma a volte non si può. Avete un consiglio per ingannare il mio stomaco solo per questi giorni di Brindisi? Ci scrive naturalmente Angela. Scegliamo intanto bollicine di alta qualità, quindi se i vini bianchi contengono hanno più acidità e contengono solitamente più solfiti, che sono sostanze, additivi che vengono aggiunti nel vino, e anche quelli devono essere assunti in quantità giusta, diciamo così. E poi perché c'è la gasatura, insomma, che anche questo facilita un pochino l'acidità di stomaco. Quindi scegliamo vini di alta qualità e magari associamoli di solito si prendono come aperitivo, e vediamo di associare delle verdure crude da sgranocchiare, come carote, sedano, finocchi, parliamo sempre di cibi di stagione, e evitiamo magari di abbinarli a pizzette, focacce, soprattutto se sono calde, e ai formaggi. Spesso si associa, ecco, al parmigiano. Il parmigiano è un formaggio già molto digeribile, però se soffriamo un pochino di acidità non facciamo mai l'abbinamento bollicine e parmigiano. Dottoressa Reverso, grazie per essere stata con noi, la ringrazio, la saluto e le faccio i nostri auguri. Grazie a lei, buona giornata a tutti e tanti auguri di buon anno. Grazie. Allora, si lamenta il vostro stomaco, che cosa ci vuole dire? Irritato e stressato, sotto pressione per il troppo lavoro, oppure non gradisce i cambiamenti repentini? Insieme a noi abbiamo ancora il professor Gasbarrini, il numero verde è a vostra disposizione, 800 24 00 24, ma Professor Gasbarrini, quando noi diciamo acidità di stomaco, in realtà vogliamo dire anche tante cose, perché questa sensazione di disturbo e di disagio può essere avere un po' il presentarsi sotto forma di una fitta, di un peso, oppure di una sensazione a sbarra, al senso di vuoto, di un languore, di un crampo. Insomma, noi semplifichiamo e diciamo faccio fatica a digerire, ho acidità di stomaco perché ho mangiato tanto, ma insomma, professore, per capire esattamente il linguaggio dello stomaco bisogna prestare più attenzione, lei ci deve aiutare. Sì, assolutamente. Io credo che forse il vero termine acidità è quello che identifica il bruciore retrosternale, cioè quando un po' di acido gastrico risale nell'esofago, che è un organo che non è abituato ad avere quella quantità di acido per tanto tempo, e uno sente il bruciore. Quella forse è la vera condizione di acidità che uno descrive. Ma come ha detto giustamente lei, ci sono tante altre manifestazioni. Lo stomaco è posizionato sotto il diaframma, quindi è alla fine proprio dello sterno, e in quella zona il dolore, più che un'acidità, è proprio un senso di peso, un senso di difficoltà a digerire, un senso di, a volte può essere di languore o di vuoto. È ovvio che lo stomaco è un organo complesso, come abbiamo detto molto bene fino adesso, è un nostro organo che produce tanti acidi e normalmente fa molto bene le sue funzioni. Il problema è che noi, soprattutto in questo periodo, cominciamo ad assumere una quantità assolutamente eccessiva di cibo, una quantità troppo ricca in termini calorici, una quantità anche assolutamente esagerata, cioè lo stomaco non è fatto per digerire così tanto cibo in così poco tempo. Pensate che cosa succede il 24, il 25, il 26, il 27, sono giorni dove assolutamente la quantità di calorie, di proteine, di grassi è assolutamente eccessiva, e come se non bastasse la quantità anche di alcol che uno assume è assolutamente eccessiva. Il problema è che dipende da dove partiamo. Se partiamo da uno stomaco in perfette condizioni, forse può essere anche abile a digerire tutto quello che prendiamo in eccesso. Se però, come spesso avviene alle nostre latitudini, abbiamo uno stomaco un po' infiammato, siamo persone che già ogni tanto siamo un po' in sovrappeso corporeo, non facciamo un'alimentazione perfetta, è ovvio che lui parte male e per cui tutto si amplifica in maniera eccessiva. Se già è stanco, questo super lavoro lo affatica ancora di più. 800 24 00 24 abbiamo Massimo che ci chiama da Foggia. Buongiorno Massimo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo rispondere agli intrusi? Sì, agli intrusi. Allora, li facciamo riascoltare, Carmelo, che sì, regia la parte tecnica, un attimo, perché ecco, rapidissimo, andiamo. Limone, clementine, kiwi, ricotta, pera, arance, pompelmo, parmigiano, aceto, sardine. Ecco qua, Massimo, ha trovato gli intrusi, quali sono? Sì, secondo me è la ricotta, una degli intrusi. Ma no, ce ne sono altri. Sì, la sardina. Poi il kiwi. No, ai. Massimo, tanti auguri. Sì. Alla prossima, buona giornata. Grazie, buona giornata. Professor Gasbarrini, oltre agli alimenti acidi, meno acidi, anche lo stress si fa sentire sul nostro stomaco, che è uno degli organi bersaglio preferiti. Vabbè, assolutamente. Lei sa che nel nostro apparato digerente esiste un secondo cervello. Noi abbiamo un cervello alto all'interno della scatola cranea, che è un secondo cervello a livello dell'apparato digerente, perché d'altronde è probabilmente l'organo che tutta la nostra vita deve prendere il cibo, riconoscerlo, identificarlo, assorbirlo, per cui ha delle funzioni fondamentali, è un vero e proprio cervello. In alcuni casi il cervello, quello in alto, può andare a influire pesantemente su quello in basso. Pensiamo ad esempio a quando siamo agitati per un esame, no? Un esame all'università, un esame a scuola, uno deve andare al bagno di corsa, quello lì è il classico segno che il cervello alto può influenzare su quello basso. Se noi siamo sottoposti a un elevato stress, può aumentare anche la produzione di succhi acidi e intestinali, e questo ovviamente, soprattutto quando uno ha uno stomaco già un po' infiammato, già un po' sotto pressione, può diventare un problema. Questo è il languore che si accusa a volte quando uno è sotto grande stress. Alessandra ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai suoi ospiti. Senta, io avevo un quesito per il professore. Volevo sapere se il bruciore di stomaco, che peraltro mi perseguita praticamente tutto l'anno, è in qualche modo correlabile al bruciore alla gola e alla lingua e a cambiamenti quindi anche di sensazione del gusto sulla lingua. Certo. Ho la sensazione che il mio bruciore di stomaco spesso coinvolga anche la bocca in generale. Insomma, si allarga, come si dice. Alessandra, chiediamo subito al professor Gasbarrini. Professore. Allora, sì, assolutamente. Dallo stomaco questo bruciore cammina, risale. Sì. Sì, perché lo stomaco è in diretta continuazione con l'esofago, no? E l'esofago ovviamente termina a livello delle corde vocali, della laringe e poi della lingua e della bocca. Se noi abbiamo dei reflussi di acido o di bile, perché sapete che all'interno dello stomaco si può trovare anche bile, che è un alcale, non è un acido, però può dare disturbi. Quindi reflussi di acido o di bile lungo l'esofago possono bloccarsi nella prima parte, questa si chiama esofagite terminale, o se no possono arrivare alte, arrivare a livello delle vie respiratorie, a livello anche della bocca, della laringe e del faringe. È ovvio che se arrivano così in alto questi reflussi, uno può avere delle sensazioni anche molto alte. Pensate che ad esempio gli asmatici possono, se hanno ad esempio un'ernia iatale che facilita un reflusso di acido di bile, questo reflusso può arrivare a livello respiratorio e scatenare delle crisi d'asma, quindi delle problematiche che apparentemente non sono dello stomaco, ma in realtà nascono proprio da un reflusso di acido dallo stomaco all'esofago fino alle vie più alte. E in alcuni casi lo stomaco soffre per la presenza di un ospite sgradito, è un vermicella a forma di aeroplano chiamato Helicobacter pylori, una scoperta da Nobel che ha cambiato radicalmente lo scenario delle malattie gastriche. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati, in linea con noi abbiamo il professor Gasbarrini, stiamo parlando di acidità in senso lato. Professor Gasbarrini, Natale, abbiamo passato il Natale, adesso ci attendono le feste di Capodanno dove ci saranno brindisi, panettone, pandoro, mangeremo le lenticchie, il cotechino, e molti ascoltatori mi chiedono, ma in questi giorni è bene magari adottare una dieta depurativa in modo da così fare un po' azzerare la fatica del nostro stomaco e prepararlo ad affrontare grandi libagioni, pranzi, cenoni? Ma guardi, in realtà la dieta più facile, la dieta depurativa, è la dieta che dovrebbe essere la base poi della nostra alimentazione, ed è la dieta ricca di fibra, cioè la dieta ricca di frutta e verdura, che sono in assoluto gli alimenti che hanno il miglior rapporto tra fibre e quantità minima proprio di calorie e soprattutto carboidrati non assorbibili, cioè che danno proprio massa al volume fecale, anche perché nella frutta e verdura in qualche modo sono in grado di assorbire molte delle tossine che sono eventualmente presenti e di portarle via. E poi sono degli eccellenti anche rimedi, soprattutto la verdura, antiacidità, perché in qualche modo tamponano l'acidità gastrica. Per cui se uno vuol fare una dieta sana, frutta, verdura, molta verdura e soprattutto molta acqua. Il concetto fondamentale è eliminare gli alcolici, cioè se noi facciamo un abuso di cui a volte si fa fatica a fare a meno, no? Il brindisi di Natale, il brindisi di Capodanno. Lo facciamo anche volentieri, Sì, diciamo che soprattutto se uno può permettere, se non altri problemi. Certo. Può essere anche un bene per la mente. Il problema è che però dobbiamo dare un riposo al nostro fegato, al nostro stomaco, per cui soprattutto in queste fasi transitorie eliminare completamente gli alcolici. Ecco, facciamo una sorta di stretching del nostro stomaco, sì, ma a proposito di verdure, meglio cotto o meglio crudo? Ma guardi, se uno dovesse dirlo, in genere è sempre meglio cruda la verdura, perché gli garantisce il 100% delle sue componenti buone, gli garantisce le fibre, gli garantisce la quantità ottimale di vitamine e di minerali, quindi se uno dovesse scegliere della verdura cruda ben lavata. Mario ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno Mario. Buongiorno, buongiorno a voi. Auguri. Grazie altrettanto, molto gentili, grazie. Mi dica. Allora, io telefonavo per quei famosi intrusi. Gli intrusi, eccoci qua. Allora, ci siamo, ha bisogno di riascoltare l'elenco o no? Ma credo di no, spero di no. Dai, allora, proviamoci. Proviamoci. Proprio pronto per lei le ricette dei Magnifici 20. Mi dia questi quattro intrusi che sono facilissimi. Sono facilissimi, speriamo. Dai, allora. Marco, dai. Allora, credo che siano la pera. Sì. La ricotta. Sì. Il parmigiano. Sì. E le sardine? Bravo! Per lei le ricette dei Magnifici 20 di Marco Bianchi, lo chef scienziato, conduttore anche di Tesoro Salviamo i Ragazzi su Fox Life. Grazie Mario, tanti auguri. Grazie a voi, grazie ancora a voi. Grazie. E invece noi andiamo a Savona, c'è Maria che ci aspetta. Buongiorno Maria, benvenuta. Maria? Non c'è. Francesco da Caserta? Buongiorno. Buongiorno Francesco. E auguri. Auguri anche a lei. Ha festeggiato? Come? Ha festeggiato? Beh, sì, in famiglia. Bravo, sì, ovviamente, bravo. Sì, in famiglia. Okay. Bene. Volevo fare una domanda al professore. Volevo chiedere se i fenomeni di alitosi sono strettamente correlati con l'acidità gastrica o comunque problemi di stomaco, tipo ernia iatale e quant'altro. Mm. Grazie Francesco. Professor Gasbarrini, se l'igiene orale è fatta come si deve. Sì, diciamo questo, in qualche modo è ovvio che l'igiene orale è importante, perché voi sapete che anche la nostra bocca è piena di batteri e per cui deve essere ben fatta. Direi che io vedo più il contrario, cioè più che un'igiene orale collegata a un problema dell'apparato digerente basso, cioè dello stomaco, della parte più bassa, può essere il contrario. A volte avere una continua reflusso acido, reflusso biliare, soprattutto in una persona che è in sovrappeso, che fa delle grandi mangiate notturne magari subito prima di andare a letto, quindi in qualche modo l'organismo si mette subito orizzontale, se c'è un'ernia o un aumento di reflussi, questo può influire su una cattiva igiene orale. Un continuo reflusso di acido, di bile può determinare una faringite, può arrivare anche a dare delle problemi a livello gengivale, per cui lo vedo più il contrario, però non c'è dubbio che, ricordiamoci sempre che bocca, esofago e stomaco fanno parte di uno stesso tubo. Senta, quindi non c'è dubbio che le patologie, capito, possano andare da una parte all'altra. Senta professore, vogliamo parlare anche di questo vermicello, di questo ospite indesiderato, dell'Helicobacter? Negli anni 80 è stato scoperto questo piccolo batterio che si chiama Helicobacter pylori, questa scoperta ha talmente rivoluzionato la medicina che al suo scopritore è stato dato un premio Nobel. E il dato qual è? È un piccolo batterio che cresce molto bene nell'acido gastrico, diciamo è uno dei pochissimi batteri che cresce bene nell'acido gastrico. Ci sguazza, insomma. Sì, il problema è lui si inguatta proprio all'interno del muco, sta lì, sta benissimo, ha tutta una serie di enzimi che lo fanno sopravvivere nell'acido. Il problema è che in alcune persone, alcuni di questi batteri possono dare una risposta infiammatoria, cioè l'organismo tenta in qualche modo di eliminarlo, non ce la fa, però in questa lotta tra il batterio e l'organismo si possono creare dei piccoli crateri che sono le ulcere. Calcolate che con la scoperta di questo batterio e con l'eradicazione di questo batterio, l'ulcera gastrica e l'ulcera duodenale si sono ridotte in maniera drammatica, e calcolate che noi in questo momento, una volta erano delle prime cause di intervento dello stomaco, no? Quando l'ulcera si perforava, si toglieva lo stomaco delle persone, una parte di esso. Adesso questi sono interventi scomparsi, proprio perché grazie al riconoscimento di questo batterio, che ricordo si può trovare nelle feci, si può scoprire con un test del respiro, si può trovare con la gastroscopia o nel sangue, ci sono vari metodi, ma una volta che uno sospetta una gastrite o un'ulcera o la vede con la gastroscopia, deve subito cercare il batterio e, se presente, eliminarlo. Bastano 7 giorni di terapia antibiotica o 10 giorni in base alle terapie che uno vuole fare, però quello che è cruciale è sapere che togliere questo batterio fa guarire completamente l'ulcera. Gastrica. Questa è una notizia molto importante che voglio dare ai nostri ascoltatori. Abbiamo già dedicato anche delle puntate intere all'Helicobacter, ma sono contenta di tornarci. 800 24 00 24, altre feste ci attendono. Allora, prevenire, lo sappiamo, è meglio che curare, ma nel caso il vostro stomaco si mettesse a fare i capricci, non fatevi mettere KO. In linea con noi ho il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medico di Altavilla Vicentina. Buongiorno dottor Temporin, bentornato e auguri. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti. Dottor Temporin, allora, ho mangiato troppo e lo stomaco va in fiamme, che faccio? Allora, se possiamo trovare subito un ottimo rimedio casalingo, è un prodotto che proprio arriva dalla natura e ci può aiutare direttamente a casa nostra. Prendiamo una patata, la centrifughiamo e ne beviamo il succo. Questo possiamo farlo per qualche giorno prima dei pasti, e ci aiuta, in quanto la patata ha questo effetto alcalinizzante, quindi va a placare questo eccesso d'acidità e ci aiuta a placare questi disturbi dello stomaco. Cattivella il succo di patata. Io non ho la centrifuga, devo comprarmi questa centrifuga, perché tutti, vero? Anche Carmelo Lauricella, che regge la parte tecnica, l'ha comprata pure lui, è contenta, perché continuano ad arrivare ricette che utilizzano la centrifuga. Però la patata cruda centrifugata è cattivissima. Diciamo che, se vogliamo mitigare... Lei vuole farci soffrire, lei ci vuole fare penare, eh? Che cosa ci dà di buono invece? No, possiamo mitigare eventualmente il gusto della patata aggiungendo sempre nella centrifuga un po' di carota oppure un po' di mela, e quindi il gusto diventa sicuramente più gradevole. Qua mi piace. Se invece in alternativa alla patata? Allora, sempre rimanendo a casa nostra, quindi nella nostra cucina, possiamo trovare anche il cavolo bianco, che sempre crudo e centrifugato, in questo caso il gusto non è così cattivo, più che altro è l'odore, perché il cavolo contiene dei principi solforati. Chi la sta chiamando, dottor Temporin? Sì, ho visto, ho interrotto subito. No, ma poteva anche rispondere, mi dica. Contiene dei principi solforati e quindi ovviamente l'essenza è un po' forte, però il gusto sicuramente è più gradevole, e anche il cavolo ha questo effetto di placare questi bruciori derivati magari da qualche eccesso natalizio. Se invece sappiamo che il nostro stomaco tende a tirarci dei tiri mancini, cerchiamo di farlo ragionare, dottor Temporin, magari con una tisana, cioè giochiamo un po' d'anticipo. Allora, una buonissima tisana, un buonissimo infuso, lo possiamo fare con tre semplici piante che possiamo farci preparare dal nostro erborista di fiducia, quali l'Altea officinalis, la liquirizia e la melissa. Sì. Questa, tra l'altro, è una tisana molto gradevole grazie alla presenza della liquirizia, e ci dà aiuto sia nell'aspetto digestivo, ma l'Altea, contenendo delle mucillagini, quindi sono delle fibre morbide, protegge il nostro stomaco. Ma scusi, dottor Temporin, questo lo prendiamo come tisana digestiva dopo il pranzo o dopo la cena, o lo prendiamo al bisogno? Noi possiamo utilizzarla come digestiva, ma anche a bisogno, senza problemi. L'unica attenzione da fare è per quelle persone che soffrono di ipertensione, nei quali la liquirizia non va presa in eccesso. Un aiuto invece però per stomaci permalosi, a cui basta un non nulla per infiammarsi, arriva anche dalla fitoterapia. Sicuramente. Nella fitoterapia esiste un rimedio che è un po' il rimedio cardine per lo stomaco e anche per l'intestino, che è il ficus carica, ovvero l'estratto delle gemme del fico, il quale ha un effetto proprio di regolazione delle nostre secrezioni gastriche, quindi ci permette di abbassare il livello di acidità, ma al tempo stesso non va a inibire gli enzimi digestivi, per cui possiamo prenderlo sia se abbiamo ovviamente uno stomaco iperattivo, ma anche in caso ci fossero dei rallentamenti della nostra digestione. Dottor Temporin, grazie per essere stato con noi, la saluto, la ringrazio, buon Natale l'abbiamo già passato, e ci sentiamo con l'anno prossimo. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Essere e benessere. Eccoci qua, siamo tornati, abbiamo in linea Maria da Savona. Maria, intanto buongiorno. Buongiorno dottoressa. Professor Gasbarini, stanno arrivando tantissimi rimedi dei nostri ascoltatori per calmare l'acidità. Ne leggo alcuni, poi li commentiamo. Il riso semi-integrale bollito, la zucca, il pane secco. Maria, lei ha qualche rimedio antiacidità? Ma io non è che ho dei problemi di acidità, ho telefonato per un problema particolare, non so se posso spiegare. Sì. Io ad esempio alla sera digerisco continuamente, ma non è neanche penso a cosa mangio, è proprio siccome sono un tipo molto ansioso e anche emotivo. Sì. Penso che sia un problema di nervi allo stomaco, se poi mangio di più ho più problemi. Certo. È una sorta di fame d'aria. Professor Gasbarini. Sì. Sì, è interessante, è ovvio che questa è una problematica che non ha niente a che fare con, diciamo, con un gastroenterologo. Però Oddio, in qualche modo calcolate che la gente poi va dal gastroenterologo per tanti motivi, anche non strettamente legati a una patologia gastrica. Calcolate che io credo che almeno il 40-50% delle persone che vanno da un gastroenterologo hanno delle problematiche in qualche modo anche psicologiche, ma ormai chi non le ha. Le critiche, dice la signora, possono essere delle critiche, che siamo di arogastria bloccata, cioè una persona ingerisce aria, in qualche modo poi ha degli spasmi cardiali per cui l'aria rimane bloccata all'interno dello stomaco o non riesce passa proprio all'intestino e viene riassorbita. E a volte con delle forme, ora la signora le ha chiamate in maniera elegante, però sono delle piccole ruttazioni con cui la persona poi si libera dell'aria che blocca all'interno dello stomaco e riesce a star bene solo appunto quando la libera tutta. Ha a che fare anche con problematiche psicologiche, di nervosismo, di rabbia, di rancore. Però calcoli che spesso uno va da gastroenterologo e ha un problema psicologico sottostante. Senta, professore, il riso semi-integrale bollito, la zucca, il pane secco, ma un ascoltatore, Angelo, mi dice, mi raccomando, dica assolutamente di non fumare. Io ho smesso e mangio tutto, nonostante la presenza di ernia iatale e gastrite, non sento più nulla. Professor Gasbarini. Beh, sul fumo non c'è dubbio, ragione l'ascoltatore, il fumo, tra le tante cose negative che ha, anche quello di determinare un aumento di, in qualche modo, il cardias, che questa piccola valvola che separa esofago da stomaco, si apre e si aumentano i reflussi, poi lo stomaco, il fumo ha tanti effetti negativi sull'organismo in generale. Per quanto riguarda i rimedi dei vari ascoltatori, hanno ragione, in qualche modo sono tutti alimenti sani, calcolate quanto può essere sano del riso integrale di per sé, poi un alimento con poche calorie, molto sano, e in qualche modo cosa fa? Tampona l'acidità gastrica, per cui ovvio che se avrete gli alimenti che vanno a bloccare questo acido che c'è nello stomaco, quando uno ha una gastrite sottostante si sente immediatamente meglio. Letizia ci chiama da Milano, buongiorno Letizia, benvenuta. Buongiorno, grazie. Io volevo spezzare una lancia a favore del centrifugato di sé. Il centrifugato di? Perché non è assolutamente cattivo, anzi. Lei dice, si riferisce al centrifugato di patata suggerito dal dottor Temporin? Esattamente, io ho sofferto di acidità, di bruciore di stomaco, il medico che ho curato mi ha consigliato di centrifugare una patata piccola al mattino come prima cosa e alla sera ultima cosa prima di dormire. L'ho fatto per 15 giorni, io sono stata benissimo, l'ho consigliato a miei amici. E tutti vanno di centrifugare. Letizia, mi scusi, la interrompo perché non sentiamo bene la sua voce, ma il messaggio è arrivato. Professor Sgarbarrini, sembra che la patata faccia miracoli. Ma voglio dire, qualsiasi alimento che è in grado di bloccare l'acidità gastrica ha la funzione. Ora, voglio dire, vanno benissimo tutti questi rimedi naturali e quant'altro, ricordo solo che a volte esistono delle piccole compresse, se ne prende una ha lo stesso effetto di 10 centrifugate di patata. Cioè, voglio dire, se il centrifugato di patata fa parte di un concetto diverso, filosofico, cioè miglioriamo la modalità con cui noi mangiamo, reintroduciamo alimenti naturali, d'accordo? Allora va perfettamente, cioè, ma l'errore più grande che uno può fare è mangiare cose sbagliate, bere alcolici, fumare e poi si prende il centrifugato di patata, cioè è un po' un'assurdità. No, cioè, e lo stesso, però, bene, professor Gasbarrini, lo stesso se uno mangia tanto e male, un'alimentazione ricca di grassi, beve, fuma, eccetera, e poi prende la pastiglietta. È la stessa cosa, cioè il concetto generale non è il rimedio che noi possiamo trovare, che è ovvio che ti immagini, più sono naturali, più sono logici. Il punto fondamentale è che noi dobbiamo un attimo probabilmente fare un'analisi critica di quello che abbiamo mangiato, rimetterci a mangiare le cose più sane, più naturali, meno, in qualche modo meno caloriche, meno impegnative per il nostro apparato digerente, e poi forse non abbiamo bisogno di quei rimedi. È ovvio che se dobbiamo avere dei rimedi, meglio che siano naturali. Meglio che siano naturali, come un massaggio, perché un aiuto per digerire meglio può arrivare anche da un massaggio. In linea con noi abbiamo Marco Mazzotta, riflessologo, terapista della Fondazione Apostolo. Ciao Marco, bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, con tanti auguri per un anno pieno di salute. Che belle notizie stamattina, che belle cose interessanti, che come sempre. Grazie Marco. Sì, date sempre delle nozioni interessantissime e i medici danno delle cose molto belle oggi. Cerchiamo di imparare a prenderci cura di noi, a diventare protagonisti della nostra salute, artefici del nostro benessere. Senti Marco, riflessologia, un massaggio. Dicevo, può essere utilizzato come un SOS. Abbiamo mangiato tanto, sentiamo che la digestione diventa difficile, aiutiamoci, facciamo sulle mani, perché così non lo facciamo sui piedi, perché se siamo alla cena dell'ultimo dell'anno tirare fuori i piedi non è molto carino. Possiamo farlo sulla mano, perché i punti sono riflessi anche sulla mano, andando sul palmo della mano sotto il dito in medio. Sì. Seguiamo il sentierino sotto il dito medio, come se il dito fosse più lungo, dove finisce la parte ossea c'è un buchino. Quel buchino lì corrisponde al cardias e ci fa entrare in stomaco, quindi massaggiando con una rotazione, una pressione in senso orario, facciamo una rotazione sul cardias e poi ci allunghiamo verso il dito indice e facciamo un sentierino, passeggiamo su questo dal medio all'indice nella parte morbida, passeggiando, lombricando, il termine esatto della riflessologia. A proposito di vermicelli, professor, esatto. Gasbarrini. Corriamo su questo sentierino e diamo beneficio alla prima parte dello stomaco, quindi cardias e stomaco, poi si va in esofago, però logicamente massaggiando questa parte, è proprio la prima parte dello stomaco dove si sente quella pesantezza, quell'acidità di cui hanno parlato. Quindi dito medio, prima. Dove finisce il dito medio? C'è una piccola protuberanza, andiamo giù verso il palmo dove troviamo un buchino, lì facciamo il massaggino. Poi dal cardias passiamo verso, sempre se, mantenendo quell'altezza, verso il dito indice, andiamo a massaggiare tutta la parte della bocca dello stomaco. Fantastico. E quindi cominciamo ad alleggerire e a dare una sensazione di beneficio. Poi volevo darti una cosa che non c'entra niente con l'acidità, però il singhiozzo può avvenire, il singhiozzo. Sì. E allora invece sul dorso della mano, tra il pollice e l'indice, c'è questo bel sentiero grande e mezzo passando tra l'indice e il pollice. Sì. Arriviamo alla fine di questa parte cicciuttina. Sì. E troveremo un buchetto, massaggiando quel buchetto che corrisponde alle corde vocali, quando uno ha singhiozzo. Massaggiando le corde vocali automaticamente smette di singhiozzare. Fantastico, che quando professor Gasbarini ci arriva il singhiozzo non si riesce mai a fermare e si prova con tutto, con lo zucchero, con i 7 sorsetti d'acqua, si trattiene il fiato. Perché cosa c'entra? Lo stomaco c'entra col singhiozzo, professor Gasbarini? Assolutamente sì, perché calcolate che il singhiozzo viene sempre per una contrazione del diaframma. Calcolate che l'esofago e lo stomaco, esofago e stomaco, l'esofago passa nel diaframma e lo stomaco è subito sotto, quindi a volte è anche un problema gastrico, un problema esofageo, può estrinsecarsi con un singhiozzo. Quindi adesso proviamo con il massaggio, se no con i rimedi della nonna, ma io proverò con il massaggio. Grazie a Marco Mazzotta per essere stato grazie con noi. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori e che sia un anno pieno di salute il 2012. Grazie a Marco Mazzotta, professor Gasbarini, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei come sempre, grazie a tutti. Buona giornata e buon anno. Allora io come sempre vi invito a scriverci se avete problemi, se volete raccontarci qualcosa di voi, un dubbio, la nostra email è esserebenessere@radio24.it. Vi raccomando il nostro Daily Lab, un appuntamento quotidiano con tanti consigli per prenderci cura di noi, e poi come sempre il nostro profilo Facebook, chiedeteci la nostra amicizia, noi ve la regaliamo volentieri. Per oggi è tutto, vi saluto, ringrazio Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi come sempre preziosissima in redazione. Per oggi è tutto, ci sentiamo domani sempre alle 11, vi aspetto, buonissima giornata. Essere e benessere.